Io mi ricordo il Tornado che c'era mio fratello, però il 3009 non me lo ricordo proprio. Ma che marca è? Vuoi rifare l'ultimo passaggio? Questo è 3009 col microfono normale, 5 watt d'uscita, 4 watt, dai, non 5, 4 watt d'uscita, è normalissimo, va. Anche questo molto molto chiaro, anche questo molto chiaro come suono. Ottimo Giovanni. Questo è il microfono originale perché ce l'avevo amplificato ma mi si è rotto e quindi ho lasciato quello originale, dai. No, molto pulito il suono, cioè poco rumore di fondo c'è la portante, molto pulito il suono. E come segnale come suona? A me sei a fondo scala, cioè lo stesso segnale che ho io in uscita mi dai tu quando entri. Cala cala, va bene, dai. Andava bene. Avanti chi ha detto chiaro. Qui come segnale sei 920. Caspita, bello sparato. E chi sei? La porta torre. Sì. Non avrei vinto tu, no, l'altro giorno, che c'è stata una vincita grossa a Porto Torre. Magari. E ho detto magari che a chi te lo conosce, boh. Ma quello che mi auguro io è che sia una persona che abbia bisogno, dai. Infatti, è quello che dico anch'io. E che si possa sistemare almeno per un po'. E va bene, dai. Sei Claudio, ho capito che sei Claudio. E niente, buonasera. C'è anche un amico che è entrato dopo tanti anni, è rientrato in frequenza. Adesso te lo mando avanti. Andrea, vai avanti, poi fai girare per Natalino. Ciao Claudio, piacere, ti sento non benissimo, ma piacere di sentirti. Claudio, l'hai sentito Andrea? Purtroppo no Gianni, proprio qua è negativo. Andrea non ti ascolta, è a Porto Torres questo amico, capito? Non ti ascolta. Capa, anch'io lo sento proprio malissimo, proprio rumore di fondo. Va bene, va bene. Io lo sento sparato, qua a casa sembra sotto casa mia. Tu sei super professional, io c'ho un filo che c'è la balcone. Vabbè, già te addrizzi Burudu. Vedrai che piano piano anche tu ti metti in sesto, ovvero... Natalino se n'è andato. Avanti Cristian, ci sei? Cristian, si è perso Cristian, dai, chi siamo rimasti? E tu di nuovo e basta. E cosa? E Claudio, dai. Andrea, avanti. Andrea si è perso, Andrea si è perso e non sa tornare. Avanti Claudio. Ho visto la nuova antenna che è uscita, deve essere mostruosa, 10 metri lunga. Ma quella... di che marca è questa antenna che è uscita? Non è la Jim Cole, è quella... come si chiama? Vabbè, già la Grazioli. Esatto, la G-Max. 10 metri, cazzo, di antenna, ui. È di ribone, è un pericolo, l'importante è che sia libera, eh. E poi qualche pericolo, se è controllata bene. Lo so, ma ammetti che si rompa, che cada giù, una cosa del genere fa genere danno. Io sono su un palazzo di 6 piani, cavolo, se cade da lì fa di danno a vivo. Stavo guardando poco fa come va piazzata, come va costruita, eccetera. Addirittura si mettono due controventature, quindi più è abbastanza di sicurezza. Io di tiranti ne ho 10. Questa va messa in due altezze diverse. Una al palo che mantiene e l'altra a 5 metri, a metà antenna, una ralla lì. E anche io ho messo due ralle, una crociera l'ho messa su e l'altra l'ho messa più in giù. E le ho messo 9 tiranti. Beh, lo sai cosa mi ha fatto il vento? C'è la maestrale da poco, ce l'è presente? Beh, mi ha piegato il palo, perché? Cos'è successo? Che mancava un vento. L'ha presa da dietro, io ho messo i tiranti all'alto e davanti e l'ha presa da dietro, capito? L'ha fatta piegare verso l'avanti, adesso gli ho messo un tubo d'acqua, perché io c'avevo un palo telescopico normale di quelli zingati, ma non è bastato, ha piegato quello. Quindi immaginati tu il vento da me che tira, tu lo sai benissimo, quando c'è maestrale qua è come se fosse a Porto Torres, la matte si gola. Tu figurati che io qui ho dovuto mettere un palo di 6 metri da un pollice e mezzo e scritura grossa, questa non lo piega manco si, se fa il vento 200 all'ora, è bello tosta, poi controventata bene, sto vedendo anche in questi giorni che c'era un po' di vento e la manta va più che tranquilla. Tu hai la Jane Paul, vero? No, la manta va uno. Bel segnale. Io ho preso la Super Lem da poco, ce l'avrò, l'ho piazzata il 13 dicembre, perché l'altra che ci avevo mi si è troncata per due volte, alla fine mi sono rotto le scatole e l'ho tolta. C'avevo la Game Master prima e non andava bene come antenna, troppo vento batte qua. L'ho tolta anch'io, ce l'avevo anch'io, l'ho tolta e l'ho fatta fuori subito. Allora, come antenne e come segnali vanno bene, è il materiale che non serve, non serve il materiale, è troppo fino, io praticamente mi si è troncata prima in un punto, l'ho sistemata, praticamente l'ho fatta scendere appena appena dove c'era lo spacco, l'ho fatta scendere un po' di più e gli ho messo tre fascette in acciaio, lì non si è più rotta, si è rotta più in alto, capito, nell'altro elemento, alla fine mi sono rotto le scatole. No, ma è così. Comunque deve flettere un po', deve flettere un po', perché quando è troppo rigido spacca. Deve flettere, almeno mezza antenna deve flettere. Ma io l'antenna non ne ho messo tiranti nell'antenna, c'erano solo nel tubo tiranti. Tiranti nell'antenna non ne ho messo. Ad esempio sulla Game Master. Ci va una ralla a una certa altezza di antenna, nessuno l'ha messa, nemmeno io, però mi ha dato troppo fastidio, si stava quasi spezzando, l'ho tolta subito, no? era brutta solo a vedere. Sì, ma quel tipo di antenna funziona solo esclusivamente se tu li metti un tubo rigido sopra l'antenna già fatta, in modo che non fretta più di tanto, come ha fatto Luca Flipper quando ha fatto le antenne, lui le ha fatte come la Game Master, le ha accoppiate come misure e tutto quanto, però le ha rinforzate, le ha messo praticamente il polietilene espanso all'interno e tutto quanto, la gioia non si è mai fasciata perché l'ha rinforzata, capito? Ce n'è anche un'altra che non si rompe, quella americana, la IMAX 2000, e quella è tutta è tipo la Game Master, uguale, stesso materiale, solo che l'hanno fatta più robusta, e di quelle ancora non ho sentito che si rompono. Ma comunque in ogni caso sono 200 euro che ci ho buttato via al vento. L'ho regalato a un amico che ha buscato gli altri elementi di una Game Master che avevano demolito, c'erano gli elementi buoni e gli ha messo quegli elementi e se l'ha ricostruita, però non so quanto possa durare, gliel'ho detto, quando tu la piazzi rinforzala perché se no non ti dura, chi se l'ha ragione, il materiale è troppo fino, non c'è da fare niente, no, ma ralla non ne puoi mettere perché non puoi mettere oltre la bobina, non puoi andare con pezzi di ferro, scusami un attimino Andrea, ti faccio venire subito avanti, dai vieni avanti Andrea, così almeno anche tu ci parli delle antenne che tu conosci, e Andrea deve aver chiuso, boh. E comunque quella è la ragione, quelle antenne lì, diciamo che come antenna è buona perché i segnali sono buoni, però è il materiale che non serve. Ma qui questa, la Mantova 1 con il materiale è ottima, è abbastanza robusta, però a quanto corre me la giungo troppo. No, io no, io con questa qua mi sono trovato bene, c'è i radiali che sono il doppio di quelli della Mantova, cioè tu praticamente i radiali laterali ce l'ha il doppio, ce l'ha, devi fare in due, a due spezzoni di radiale da inserire. Ed è grandissima come antenna, cioè la parte che entra nel tubo tutta in acciaio, è fatta benissimo questa antenna qua, e poi è un'antenna che dura negli anni, è questa della LEM, le LEM sono buone come antenne, io ho la Turbo 2001 che è una bomba. Io stavo ricercando l'antenna che avevo io tanti anni fa, e l'ho cercata anche in Germania dove le facevano, non sono riuscito a trovarne una. Parlo della Sirte 2000 Gold, era tutta dorata. Ah sì, la Sirte, sì. Non conosco come marca, però è scomparsa, non l'ho più sentita, come la Sigma, non ho sentito più nulla di quelle antenne lì. Le REM stanno andando ancora molto in esilio. No, è scomparsa la Sirte sulle antenne base, però si trovano ancora quelle per macchina, le veicolari le fanno sempre. Come antenne base avevano chiuso la produzione, ma non perché non andasse bene, chi lo sa per che cosa, per fattore di guadagni, boh. Comunque antenne così non ne fanno più. Io con quell'antenna lì riuscivo a parlare dappertutto, in corsi, cade ogni giorno, dell'Isola Rossa, dell'Alghero, a Villanova, dappertutto parlavo. Con questa non ci riesco. Lo so, io ho notato che anche questa che ho io va bene come antenna. I paesi prima per me erano negativi, i posti di mare sì, perché io so che ho c'è mare proprio, io vedo tutto Porto Torres, vedo la nave da casa, tutto quanto. Sono proprio di fronte e c'è un canale dove fa passare il vento in una maniera allucinante, arrivano certe folate, che quell'antenna che c'avevo, la Game Master, si piegava quasi in due, si abbassava quasi del tutto, come se si avvia di un tunnel. Addirittura. Come fa a vedere l'antenna, la nave? E come faccio? C'è tutto il panorama, io di fronte a casa c'è tutto il panorama, si vede tutta la Sinara, Porto Torres, tutta la zona industriale, vedo. Capito, sei in alto allora. E diciamo che la zona è alta, sì, ma non sono proprio in alto, per dire la zona di Luna e Sole è più in alto. Io sono nella zona di Via Baldetta, però sono più su di Via Baldetta, quindi praticamente io dal tetto vedo tutto, tutto quanto, anche se io scendo giù col cane, vedo tutto il mare, tutto quanto si vede, è tutto libero. Ma sei più in alto di dove abitava Claudio prima? No, Claudio era sul grattacielo, era più in alto. Carbonazzi. Quella era una bella zona, eh? Una bella zona, molto alta, libera. Io più o meno, non è il punto più alto dove c'è il faro, dove sono io. Il punto più alto dovrebbe essere lì su alla cantoniera, dove c'è la boccia di leva, non so se l'hai mai visto. Sì, ho capito. Io lavoravo a Porto Torres 38 anni, non so se mi spiego. Ma allora senz'altro ci conosciamo. Probabilmente, ero l'autista dei Granati, il Tourism Market. Sì, senz'altro ti conosco, magari di vista. Ti conosco senz'altro. Scusate un attimo. Sì, d'accordo, ma tu credo la sei più in alto di Eugenio oppure più giù? Eugenio è sei di Lione. A Lione, dove c'è prima del di quel rifornitore qui fuori. Già lo so anche la traversa tutto quanto, perché ho entrato a consegnare lì, quindi conosco, so dove abita. E tu dove rimani? Sono quello del faro. Ah, ho capito, anche lì consegniamo, quindi dove c'è il faro, ho capito. Sì, consegniamo anche quella zona io. Se tu arrivi giù, arriva alla posta, giù, alzi la testa e vedi le antenne mie sopra. Da via Ponte Romano si vede? Sì, proprio la salita della posta, le vedi proprio là. Bene, bene. Ho capito. Quante ne hai di antenne perché? 4. Ma non tutte 27? No. Cappagatto. Mio figlio. Ah, ecco. Tu invece sei rimasto cibilotto. Io ho iniziato io, gli avevo attaccato la malattia e lui, dopo un po' di anni, si è preso la patente. Io sono rimasto così, ma se avrei voluto l'avrei presa 40.000 volte la patente, non mi sono mai deciso. Beh, invece non è che mi attivi molto, perché mi piace più qua, mi sento più libero di parlare, di fare, per discutere di diverse cose, lì è un po' monotona la cosa. Mi copi? Io vedo che vengono spesso qua sul 10 e insomma sono tutti amici, dai, ci si parla tutti assieme. Infatti. Andrea, tu sei? Ma scusate, vi volevo solo salutare, ero in bassa prima e non sono riuscito a salutarvi. Ci sentiamo presto, va bene, salutami anche l'amico di Porto Torres. Ciao, a presto e grazie. Ciao Andrea, dai, è stato un piacere sentirti, infatti riascoltare, non c'è problema. Ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata, ti abbiamo chiamato e non rispondevi, infatti, dai. Buona serata, ciao Andrea, ci sentiamo, avanti Claudio. Saluto da parte mia, l'ho sentito appena adesso. Ti ha salutato comunque. Ciao a tutti, buonasera, a domani, ciao. Sì, è di Sassari, ciao. E di Sassari ha preso una... cioè, questo ragazzo modulava già da tanti anni fa, poi è stato una ventina d'anni che non si attaccava all'apparecchio. Adesso su internet ha trovato un'occasione, se l'ha preso, ha trovato un apparecchio omologato, con AM, FM, eccetera, e con l'antenna base magnetica, l'ha pagata una fessilia, mi pare 83 euro, una cosa del genere, con spese di spedizione e tutto, se l'ha preso, capito? Vabbè, ha fatto bene. Ha fatto bene. Tu ti ricordi come nominativo un certo brigantino? A voglia. Caspita, eravamo un amicone, non l'ho più visto, caspita. A conoscerlo non lo conoscevo, però il nominativo me lo ricordo bene. E poi a Porto Torres si riconoscevo un po' tutti, Toccai, Angelo Asso, un po' tutti quanti li conoscevo. Brigantino era quello che c'aveva al supermercato via l'Isola Rossa. E ci sentivamo da qua, tutte le sere si parlava. Sì, me lo ricordo, anche io ci ho parlato qualche volta. Io all'Isola Rossa, tutta quella zona lì, ci arrivavo tranquillo. Poi quando era a casa di mamma, a Sacro Cuore, ancora meglio. Andavo parecchie volte a trovarlo, là. Ogni tanto facevo un giro, andavo a trovarlo. Lui è di sopra, quel paese che c'è sopra, che non mi ricordo. Sopra Badisi, cosa c'è? C'è un paese lì. Sopra Badisi. Non ce l'ho presente, lo sai, non lo ricordo. C'è al fianco, tu vai, entri in Badisi e poi arrivi a quel paese, o se no vai più avanti lì per l'Isola Rossa e ci arrivi lo stesso. E vabbè, chi c'era lì? Lui abitava lì, però aveva il supermercato via l'Isola Rossa. Io sai dove non arrivavo, a Castelsardo, era zona d'ombra. non mi ricordo di nessuno di Castelsardo. No, una zona d'ombra, manco con la macchina da Castelsardo a Sassari arrivavo, perché io con la macchina pompavo perché c'era una bella antenna, c'aveva anche il linearone e pompavo allora, però non riuscivo mai a parlarci da Castelsardo. Mentre invece sono passato Castelsardo, tutta Costa Paradiso, l'Isola Rossa, tutta quella zona ricca, la piscina, tutta quella zona, riuscivo a parlare con tutti quanti a Sassari. Ma adesso non più però, non lo so, vuoi perché magari c'è aumentato il QRM, si è sporcata un po' l'aria, non c'è più nessuno, chi lo sa, magari d'estate si sente qualcuno in camper in giro, ma quelli che c'erano prima non, ma neanche un quarto. E molti sono anche morti, capito? Magari c'erano anche anziani che modulavano, quindi non ci sono più adesso. Ne stanno morendo tantissimi anche qua a Sassari, poi piano piano ce l'andiamo tutti. Ah, vabbè, prima o poi quello sì, però speriamo più tardi possibile. E da poco è morto Nino Torrebravo, non so se te lo ricordi. No, non me lo ricordo. Magari chissà quante volte l'ho sentito, ma adesso non mi viene in mente. E l'avrai anche visto. Allora se dove aveva la pizzeria, di fronte ai carabinieri, con la pizzeria che c'è lì, ce l'aveva lui. E poi in via Balai. Ah, forse sì. Adesso mi sta cominciando a... Ho capito, sì. Era il funerale suo da poco, poveraccio. Vabbè dai, purtroppo, ed era giovane Nino, non era grande. Ma cosa ha fatto? Incidente? No, negativo. Hanno detto che l'hanno operato e l'ha ricoverato, lo stavano per dimettere e se ne è andato uscì. Ah, poveraccio, cazzo. Cose che succedono, purtroppo siamo di passaggio qua, ogni tanto ne muore uno, è morto anche Bacchisio da poco, Bacchisio te lo ricordi? No, tu l'avevi conosciuto a Gatto Silvestro, sì. E eravamo amici con Gatto Silvestro. Giampaolo ogni volta che io scendevo a Porto Tosi, c'era il baracchino in macchina e mi diceva il pedaggio, passa a casa a pagare il pedaggio prima di entrare a Porto Torres. Lui era un po' come tipo come la torre di controllo di Porto Torres, e lui era sempre online, mattina, sera, pomeriggio, notte, lui era sempre acceso era. Lo so. Sì, sono andato diverse volte a casa sua, ci conoscevamo bene con Giampaolo, poi era acceso di Porto Torres, era quello di Sassari, insomma avevamo molte cose in comune. Sì, Giampaolo, sono andato anche a trovarlo all'ospedale quando era ricoverato prima di morire, ci aveva fatto ridere, ci aveva parlato di una tipa che aveva conosciuto, aveva detto un capo che Maria era unito di una gurraccia. Unito di una gurraccia. Tu figurati che una volta ero in macchina con me, io allora quell'anno lì ci avevo la Nevada Station Wagon a 2100, ci avevo la PL 1000, un 48 e un lineare da 800 watt, una bestia era. Comunque stava parlando lui, tranquillo, passiamo lì in via Sassari e ci ha inseguito la gazzella, ci ha fatto il posto di blocco all'americana proprio. Ah, vero? E io gli ho detto che gli siamo entrati dentro di brutto, perché magari erano fermi lì al lato da qualche parte, non ce ne siamo accorti. Ed era, il lineare era acceso a manetta, 800 watt. E gli siamo entrati dentro di brutto, gli abbiamo interrotto la comunicazione, ci hanno inseguito. E cosa ti hanno fatto? Beh, la fortuna ha voluto che quello che era, che non guidava all'atto, era amico di Giampaolo. Amico di Giampaolo e ha abbassato il finestrino, tu sì, e stavamo provando. pensando una cosa, aveva migliorato Spigni quell'affare che ha detto Spigni, no? Dice, no, adesso va bene così, io la prossima volta purtroppo sono costretto, e ci è andata bene, eh? È successo all'autista di un camion, agli punti, mi stava raccontando, ci siamo trovati da Mario, dall'elettrauto, a Porto Ottone, io stavo facendo rivedere la freccia del camion che non funzionava. È arrivato questo camionista e ha detto che l'avevano fermato la pattuglia della stradale perché gli è entrato dentro la radio e gli hanno detto tolga quell'apparecchio che c'ha, se no siamo costretti a sequestrare il camion e cercarlo noi. E gli hanno sequestrato il lineare, gli hanno messo 1200 euro di multa. Dice già mai gustato. Guarda che non gli è andata male, c'è la denuncia penale anche, gli è andata anche abbastanza bene. E poi a quanto so io la stradale tiene sempre un baracchino in 27, perché ho un amico che della stradale mi ha detto che loro lo tengono il baracchino in 27, ascoltano i camionisti. Sì, perché c'è la storia delle... si avvertono uno con l'altro, no? Mi dà visore, là si sono fermati, là eccetera, e si sono fatti furbi. E allora, lì che ci sono le luci blu, attenzione, chilometro, luci blu. Ma loro non ne possono tenermi, se no sono fuori legge, se hanno un altro apparato che non sia di loro, hai capito? Sono fuori legge. Questo documento, molto importante. Perché sono fuori legge? Se gli apparati non hanno bisogno né di concessione, adesso devo pagare la tassa, li può tenere chiunque. No, loro in servizio non ne posso non tenere dentro la macchina. Dice che Sebastiano era molto di apparecchi in 27. Sì, vabbè, se lo fanno vuol dire che lo possono fare. C'era Roberto, quell'amico mio, me l'ha detto lui, che era della stradale, non lo sa lui. Però, e se io me ne accorgo che loro mi stanno spiando con il baracchino e li denuncio, cosa succede? Perdono il posto, lo sai. Oh, sono d'accordo con il comandante, anche già così, che se lo mettono privatamente, glielo fanno mettere loro, glielo fanno mettere l'apparato per ascoltare i camionisti. Se vuoi te ne racconto una, questo amico mio che praticamente era della stradale di Alessandria, non era qua a Sassari, poi l'hanno trasferita a Sassari, è venuto qua in vacanza perché lui è sassarese, è venuto a trovare la famiglia e agli punti a un posto di blocco l'hanno fermato e gli hanno detto patente libretto, lui non ha detto nulla che era della stradale ed erano i colleghi della stradale stesso e gli hanno praticamente fatto storie perché nella patente non c'era la sua firma e lui gli ha detto lei mi faccia vedere la legge, una legge che dice che c'è l'obbligo di mettere la firma e praticamente si sono trovati in difficoltà. Poi dopodiché gli ha detto comunque qua la firma ci vuole, sì, ma non c'è nessun articolo di legge che lo dice. Alla fine gli ha fatto vedere la tessera e gli ha detto ma non ce lo poteva dire da prima che era un collega, questo e quell'altro. Ah, ma non esiste, cioè, tu non puoi contestarmi il fatto che non abbia messo la firma, non c'è nessun articolo di legge che ti obbliga a firmarla la patente. Vabbè. Comunque della storia del baracchino io lo sapevo che non se ne possono mettere in macchina loro. Il comandante se li autorizza a fare una cosa del genere si sta prendendo una bella responsabilità. Natali, io ti sto dicendo quello che mi ha detto lui, lui era della stradale, per cui quando erano in pattuglia ci avevano anche quell'apparato, così mi ha detto lui e così ti sto dicendo. Come c'hanno la telecamera nello specchietto retrovisore, eccetera, eccetera, tu non usai, cammini di sorpassi e ti butti. E Liliana. E poi la telecamera è un conto, il baracchino è un altro, tu mi stai spiando praticamente. Perché adesso magari lo potrebbero ottenere con la scusa che non c'è la concessione. Però prima io sapevo che non ne potevano tenere di apparato quando erano in servizio. Poi nella macchina sua si mettono quello che vogliono loro. No, non lo so, comunque. Tiriamo innanzi, avanti di nuovo. Oh Claudio. mi sembra, non so, per me è una cosa nuova, non l'avevo mai sentita, mai sentita. E comunque tu dici a spiarti, e quelli delle scoposte ti possono spiare tranquillamente. Vabbè, le scomposte sono lavoro, è il loro lavoro quello di ascoltare e fare ascolto. Io per dire, una volta che sono andato li ho trovati ascoltando la radio, da 27 ci avevano in ascolto. Oh, sono anni che non li ho più visti in giro, non li ho più visti da nessuna parte. Anni fa qualche volta si vedeva il furgone in giro con l'antenna del radiogoniometro. Non li ho più visti, sono anni. Già escono, sì. Tu non li vedi, ma già escono. Io li ho visti anche a Porto Torres. Cosa ti parlo di... Saranno tre anni fa li ho visti a Porto Torres io. Erano a Satellite e vabbè. E comunque li ho visti, è come se li ho visti. Perché contano anche le radio private, capito? Magari c'è qualche radio privata che mette lineari e li controllano perché disturbano, magari vengono denunciate a qualche altra radio, eccetera. Sì, quello sì. Comunque noi come baracchini, ad esempio, adesso siamo più tranquilli perché è passata in digitale la TV, non entriamo più da quale parte. Non entro più. Io ne ho, c'ho 10.000 antenne intorno, non disturba nessuno, posso parlare quanto vogliono. Non entro più da nessuna parte, meglio così. Ma Natalino entra lo stesso, anche se era in digitale entrava e disturbava. Probabilmente a chi entrava vuol dire che c'aveva un preamplificatore arrugginito, perché succede così, quando il preamplificatore d'antenna è arrugginito, ne attira tutte le cose che gli fanno in giro, tutto. Sì, tutte le spie prende. Probabilmente anche perché non era alta quella di Natalino, l'antenna sbucava appena dal tetto, quindi disturbava e ha avuto sempre problemi con questa antenna. Infatti adesso si è preso la Game Master, e l'ho detto di rinforzarla bene dove ci sono le aggiunture, anche se no questa antenna lo molla subito. Buonasera, scusavano, essere un po' tutto. Sarebbe scesa questa fermata. Sempre che riesco a piazzarmela, mi. Adesso c'è quel delinquente del piano di sopra che non vuole appiattare nulla. Come ti dici da Robacone, ti ricordo un pugno al naso e gli faccio un setto nasale, mi, se non vi rovoto. Gliel'ho giurata, Caspita, ma che gente hai lì vicino? Lucrezia. Già. Lucrezia, domani si può fare? Eia, però non tardi tardi, che ci vuole tempo, Miggia. Bisogna piazzare gli altri pezzi dell'antenna. E poi l'antenna mi sa che è già tarata, forse. Devo misurare la spirale. Comunque l'hai vista, città nuova, hai visto? Non so, l'ha fatta anche a me quella persona, capito? L'ha fatta anche a me così. Mi ha cambiato il filo interno, me l'ha messo più grosso, insomma, mi ha fatto tutti i lavori che doveva fare, la piastra li ha cambiati dove si attacca il PL. Me l'aveva fatta bella, poi vabbè, i radiali mi hanno rotto le scatole. L'ho fatto male comunque a darla perché quell'antenna lì si poteva recuperare di nuovo. Vabbè, comunque, data là non ci penso più. Cosa ti stavo dicendo, Lu? Non ci vuole tanto. Con Franco ci abbiamo messo un'ora a fare l'antenna, l'abbiamo tutta quanta vulcanizzata bene, tutto quanto, cioè non ci vuole tanto. Basta che uno vulcanizzi, l'altro faccia un'altra cosa e si piazza giù e poi te la passa. Allora, non mi ricordo se ho messo prima il vulcanizzante e sopra il nastro isolante. L'antenna ci vuole prima l'isolante sotto e il vulcanizzante sopra, giusto? No, ci vuole prima il vulcanizzante e poi il nastro serve solo per stringere il vulcanizzante, dopodiché col vento, con la pioggia e cosa si stacca e il vulcanizzante rimane attaccato, capito? Serve solo per tenere il vulcanizzante bello attaccato. Ma siamo fatto una cagata allora, ho messo al contrario. Ha fatto la cagata, sì. E tu cudri due giri di nastro sopra un vulcanizzante e a futidini. Infatti farò così allora, sì. Ma il vulcanizzante serve per non far entrare l'acqua, si mette nelle fessure e poi si mette il nastro sopra, quella è la prassi, poi vedi tu. E poi si deve tirare della metà, bisogna saperlo mettere il vulcanizzante, capito? Si deve tirare almeno della metà, e la ruggurezza, e non è trabionuta. Già hai messo bene, hai tirato bene, tranquillo. Già, io ho preso anche il nastro isolante, è tirato bene, ho voglia. Ma non in bassa. Poi quell'antennalino, che mi deve campare chissà quanto, mi farà altri 5 anni, così. Quello che è, poi cosa mi interessa, no? Già ci sono i cosi d'acciaio, le fascette sono d'acciaio, tranquillo, già. Cazzo, l'ho smontata. Sì, vabbè, con un po' di coso, dai, di buona volontà, però già dovrebbe andare bene, dai. Ma quella parte che si era spaccata l'hai cambiata? Tutto nuovo. Ah, va bene, allora. Però perché l'hai vulcanizzata prima se non l'hai montata ancora? Ho già iniziato i due pezzi, i finali, dai. Vabbè, basta riaprirlo e rifarglielo nuovo, glielo fai bene come lo devi fare, perché il nastro poi ti fa entrare l'umidità, te lo sto dicendo. Non mi basta già, siamo vulcanizzante, è un rotolo nuovo ma non mi basta, Te lo porto io, un rotolo di quello grosso. Vabbè, dai, già, io domani mattina, come vedo che le tegole sono asciutte, piazzo la scala e vedo un po' di portarmi il palo su, se ce la faccio da solo. Sarà difficile, molto difficile perché è un bel pesante. Devi un po' aspettare perché io non so, devo portare il cane prima, poi si può fare. Io adesso se finisco prima ti telefono e dico guarda che sto arrivando, capito? Ma io penso, sento le 10:30 per prendermi un po' di tempo, capito? E allora vediamo, se non ce la faccio per domani, mi organizzo per domenica, tanto c'è anche Antonio. No, me lo devi dire perché io ho già organizzato cose diverse, cioè ho cambiato i piani per venire. Ti avviso, dai, non credo, ti avviso, io mi porto comunque sia, se ci riesco, se c'è qualcuno magari prima, mi porto i pali su, quello che mi interessa, così me li piazzo, me li blocco, e così una volta che ho l'antenna esci, porto l'antenna su, mi piazzo i radiali, li vulcanizzo bene, e poi faccio quello che devo fare. Allora, ma se io so che devo venire, mi alzo presto, se so che tu lo vuoi fare domenica, allora non mi alzo presto, mi alzo normalmente come mi alzo tutti i sabati, capito? Dimmelo direttamente, se lo fai o se non lo fai. Cioè, anche io mi alzo presto, io mi alzo alle 6 la mattina, no, alle 10, alle 9, magari, non ci riesco. Io alle 6, se ho un quarto massimo sono in piedi, faccio colazione, tra una cosa e l'altra, entro in bagno, mi lavo, bum bam, in bo, porto il cane, si fa alle 7:30, 8:15, capito? E poi mi organizzo il tutto. Va bene, là. Non mi detto ancora se la fai o no. Già la faccio, dai, perché domenica ho impegni, capito? Poi se non riesco a tararla domani, già troverò un altro giorno per tararla. Io domenica non ci posso venire perché c'è gente a pranzo, quindi te lo dico già in partenza. Vabbè, comunque avanti, domani ci vediamo e ci aggiorniamo, dai. Avanti Claudio, di nuovo. Un attimo che mi è arrivata gente, sono qua in ascolto. Io va bene, ok, avanti Natali. Io ho problemi a piazzarla l'antenna perché la devo piazzare da fuori se la voglio piazzare, perché quel bastardo non vuole piazzarla, quello di su. Però vedrai la sussa che piglia se esce fuori a rompermi le balle poco a poco. Sangurone urlare in terra, Natali, e altre maniere non si possono trovare per piazzare questo cacchio d'antenna. Qualche altro approccio? provate a chiedere per la scala aerea, a vedere se te la fanno mettere. No, non me ne fanno mettere. Siamo ritornati perché... Non hai compreso che tu non vi vieni, se non vi dai io 200 euro di anticipo non ci vengo. Io lo sapevo che era così. Vabbè, 800 euro per piani molto alti, non lo so se prendono la stessa cosa per un piano basso. È così per tutti, perché ci vogliono i permessi del comune, se no non ci vengono neanche. Erano al minimo. A me me l'ha detto Luigi Vulcano che lui lo faceva quel lavoro lì. Soprattutto 800 euro bigliani. Come? 800 euro voglio. E allora di caparra vogliono 800 euro più il lavoro, no? In realtà avrebbe fatto. Dico per aprire l'antenna magnetica nato all'obrigorifero come si fa di prima, non manco esci lo mattesci. Ehi, è che c'ho la base magnetica nuova, non funziona bene perché vuole raschiata sotto. E ci vuole carta vetrata, adesso bisogna smontarla quella lì. E me la metto in macchina al limite. È una spatola d'acciaio, non fa, ho provato con c'è una vernice, cazzo, un bel resistente, ho provato con quella col trapano, con la spatola d'acciaio e non funziona. Non lega la vernice. Che cazzo? E cosa che la vernice? Io pensavo anche con la lana d'acciaio, stavo pensando. No, non ne ci ho provato già. Quindi questo per darti l'idea di... Non mi funziona bene, è sul frigorifero, ma non funziona come funzionava prima. Vabbè, una base si può per recuperare, ce li ha la 120, ce li ha usati. E non l'ho comprata lì. E anche a me mi si è arrugginita sopra, infatti l'ho dovuta tutta quanta riverniciare. Ma è sotto che io devo togliere la vernice, capito? È sotto, non sopra. Devo togliere sotto dove attacca la massa. No, io la mia è libera sotto, è bucata, c'è la calamita che attacca e poi c'è qualcosa in gomma che si mette sopra, che tra l'altro c'era spaccata e l'ho dovuto ricostruire con silicone nero dove c'era spaccato, non si vede nulla. Però queste basi magnetiche durano l'altra la Santo Stefano. Ma anche la mia è così, solo che bisogna raschiarla sotto. Eppure col trapano con la spatola d'acciaio, che avevo fatto la ringhiera io prima di verniciare l'ho pulita così con la spatola d'acciaio e è andato e l'ho fatta bene tranquillamente. Eppure non esci, cosa vuoi ti dica? Allora provo pure a cacciare il vetrata se riesco a toglierlo. Adesso la smonto piano piano e me la faccio. Va bene, avanti, se no ti rimetti l'attacco in macchina e i moduli dalla macchina, non manco esci da casa un po'. Non è per uscire da casa, me lo metto in macchina, tanto c'ho un apparecchio piccolo che mi deve aggiustare il potenziometro, che funziona a scatti il QRM, mi vorrà pulito il potenziometro del volume. Ti vuole un po' di spray per contatti, chissà se si aggiusta. Là. Io giro ad abusare, me ne sono dimenticato di bigliarlo. Perché il VD40 non va bene. Già va bene. Io ti dico una cosa, è un microfono che mi dava problemi, ci ho messo lo spray per contatti. Me li dava lo stesso problemi, ci ho messo VD40, una goccia ed è stata una bomba, non c'è più roba. E adesso proverò, ho trovato un apparecchio di quell'Intec 34 canali, me l'hanno regalato, ma bello, di quelli piccolini. Signor Mario è il papà di Angela. Ho capito, come quello di Franco. Cambio, entro solo per un saluto. Avanti. Buonasera a tutti quelli in ascolto, da Giovanni, entro solo per un saluto. Ciao, buonasera a tutti e buon proseguimento. Ciao Giova, come mai sei così abbattuto? Non capito più, dai. Ma sto bene, raga. Ho capito, dai. Auguri di pronta guarigione, allora. Grazie, grazie. Avanti, Natali. Mi sono preso questa sigaretta elettronica. Ma ancora dovesse il viaggio di ritorno per non fumare. Avrebbe L'unica sigaretta elettronica per non fumare, c'è quale? Lo zaibetto. Se tu ti metti in testa e ragioni e pensi l'atto che fai quando fumi, dici cazzo cosa c'è, pongo l'UV30 da buttare la pupura, che senso ha? Se tu ti fai questa domanda qua come ho fatto io, smetti di fumare subito. Io ho smesso 8 mesi di fumare, sono stato, non, che non ne toccavo una, e poi ho ripreso come un pirla. Però l'ho smesso di colpo io stesso. Piano piano non ci riesco. Io l'ho presa, me l'hanno regalata mia moglie, quando ero sposato. Me l'ha regalata mia moglie per smettere di fumare. E praticamente me l'hanno regalata a Natale, mi pare. E l'ho usata poche volte, poi un giorno me la sono dimenticata nel letto e girandomi l'ho crepata. Allora ho preso, ti lancio una lampada e non ho più fumato. Comunque è così, ci vuole buona volontà. Non è facile, però io vedi, sono 13 anni che ho smesso, non 2 giorni, 13 anni sono tanti. E io lo stesso, sono 10 anni. Cazzo, vabbè, tu gli hai dato la corona della fumi, tra fumata la bocca, io sono 13 anni tondi, anzi di più, senza nulla, forse magari passivo, forse sì. Beh, purtroppo se ti fuma, passi, ti arrivano le cose, capito? I segni di fumo e degli altri. Comunque niente, dai, sembra così, ma la sigaretta fa male. Ora, io vi dico una cosa però, io secondo quello che sto facendo mi viene l'affanno, mentre che prima fumavo non mi veniva, chissà perché. No, io non ne ho più toccato, da quando ho detto basta non ne ho più toccato una, Gatti l'ha detto che c'è un momento, non ne ho più fumato io, non ne ho più toccato, io ho tentennato prima di smettere, avevo smesso la settimana, poi mi ho comprato un pacchetto e le ho tutte sfasciate, non ne ho più preso poi, non ho più toccato una. Oh, tu l'hai detto che era una festa, te ne hai fumato una, così, era che tutti stavano fumando, ma una solo, così poi non mi ricordo. Tu me l'avevi detto, vabbè dai, con questo passaggio io chiudo che sto uscendo, devo andare a fare delle commissioni. Ehi, ciao ciao Luca, ci sentiamo. Avanti la stagione. Ehi, ciao Lucrezia. Alle prossime, avanti. A proposito, la radio mia com'è già? Cosa? Com'è la mia radio? Già va bene, si sente anche il televisore, tu c'hai chissà prerogativa. Quando eri in campagna si sentiva l'Ave Maria, adesso si sente il televisore lo stesso. Sì, a chi venne la mamma che si raccontava, c'aveva di quelle radioline piccole, no? E si metteva sempre Radio Maria, si ascoltava. Sì, ho capito. Io invece sto usando il 3009 col microfono normale, come mi senti tu in radio? Bene, chiara, tranquilla. Anch'io ce l'ho il microfono normale del 3009, te lo faccio sentire, aspetta. Io qua ci potrei attaccare anche un altro microfono, ma cambierò quasi fa. Quando esce bene così. Sì, infatti, guarda come sto uscendo col 3009. Bene, la tua modulazione come in verticale. Figurati. Oh signor, questo è il 3009. Ce l'ho anch'io il 3009, questo non lo darò mai perché è un bel apparecchio, anche normale esce bene. Ehi, anche il mio è normale, c'è ancora il cielo sopra i tappi. Come l'ho comprato, Un primo intervento. No, io gliel'ho tolto, la verità, gliel'ho tolto il cielo, però è nuovo il mio, e poi il mio è attaccato, io gli ho messo sotto le staffe, gli ho messo il biadesivo, è attaccato, non si muove, quindi non si può graffiare né nulla. E infatti, questo è l'MB più 4 come microfono. E già esce bene. Mi hai fatto la modifica per... No, normale, questo è quello normale. Ne avevo due di MB più 4. Uno l'ho regalato a un amico e questo me l'ho tenuto là, diciamo così. No, già va bene Natali, ti russo. E poi c'ho quell'altro piccolino per la macchina. Sto facendo girare oggi tutti gli apparecchi, cosa che ero da un bel che non li facevo girare tutti. Adesso tocca all'Intec a farlo girare. E questo è dell'Intec, lo stesso, questo piccolino che ho per la macchina. C'ha 34 canali, è quell'Intec che c'ha l'attacco a tanti cosi. L'avrai conosciuto sicuramente. Ma io c'avevo l'Intec FM 500S. E anch'io ce l'ho avuto, ma questo è di quelli piccolini. Quell'Intec piccolino. Quello che mi dispiace è l'Elbex, quello che mi hanno sequestrato. Quello lì era piccolino, bello. Quello lì per la macchina andava bene. Gianni. Pattalino. Oi. Questo è l'Intec stazione base. Sta facendo bene lo stesso. Questo qui però esce con pochi watt, capito? Vabbè, lo ordina tutti. Esce benissimo, forte di radio, bello. Poi i watt, se voglio, già l'aumento, dai. Però di suo esce con 3 watt. E questo con 4 esce il 3009. 4 watt, cioè. Questo qua non si può venire ma con la lancetta, di stazionare non ne ha nuda, l'altro è uno, questo qui manco si muove, perché ha pochi watt e quindi stazionare non ne ha. Questo è bello, c'ha il modulometro, c'ha due strumenti, modulometro e wattmetro rosmetro. Poi c'ha a fianco la frequenza e il canale a fianco. È bello, deve essere. Questo qui è un bel apparecchio. Poi gli ho messo le luci blu. Grazie, lo sai quanto esce bene. Realizzare solo una cosa del genere solo per buttare fango, per essere offensivi. Io li lascio normali gli apparecchi, non gli tocco niente dentro. Ci siamo abituati. E io non le toccate nulla, le luci le ho messe e basta. Potevo anche aumentarlo di watt se volevo, ma non l'ho toccato, l'ho lasciato com'era, originale dalla casa, è nuovo. E di beauty durerà. E infatti, tanto fuori i tocchi fanno, sforzano, fanno e si rovinano. Non le ho toccato nulla, e con i watt suoi, adesso se io lo metto a 10 watt, mi insegna 3 watt in basso. Figura. No, scusami, 2 watt. Però si sente una specie di alternata quando metti la portante solo. Così. Forse deve essere qualche ventola. Sì, la ventola dell'alimentatore. E allora non è niente. Sembrava un'alternata, invece poi mi sono reso conto, forse è una ventola che fa quel rumore. È l'alimentatore che è acceso, si sente anche qua. Figurati, io ne ho 2 alimentatori, però non si sente la ventola, a parte li ho messi lontano, ma sono silenziosi qui. Ma questa Natalia, la ventola è sempre fissa, capito? Si sente anche qua, mentre sto parlando la sento. Comunque questo qui è Linket, come lo chiamavano. Cava. Anche questa è una storia, questo qui è storico. Sono belli quegli apparecchi lì. Io base non ne ho mai avuto. Però sono belli. Ho avuto, come si chiama? Saturn Echo ho avuto base. Adesso sì, E appunto, me lo ricordavo che avevi Saturn Echo. No, questo qua, io base ne ho 2, 3 ne ho. C'ho il Ruis, c'ho Saturn Echo e l'Intec. Tutte e 3 basi. Il Saturn Echo che avevo io era bello. Ti sta sovramodulando il televisore. È troppo alto, deve essere. Lo sta guardando concetti. E allora, se ti dico di smetterlo mi do cabria, di spegnerlo mi do cabria. Quando vai è bene che è un caso. Se no io lo spengo sempre quando non c'è lì. Queste donne. I cibi devono vivere da soli. Certo, è... per fare quello che vogliono. No, ma io c'è la mia compagna in casa, adesso io per dire sto modulando, lei c'è, non c'è problema. Lei si mette a cantare, io sto all'apparato, poi una volta aspetto l'apparato, facciamo quello che dobbiamo fare, ceniamo, eccetera, però ogni tanto ci prendiamo gli spazi. E qua è troppo piccola la casa per quello. Ma ci sono anche quelle che non capiscono, che non capiscono la tua passione, non la ammettono, non interessa proprio, non gli piace, dai. Già lo so. E invece non bisogna mai invadere la vita delle altre persone, bisogna avere dei momenti di spazio uno e l'altro. Lo so. Comunque hanno abbassato. Si sente adesso? No, adesso no, adesso il concetto l'ha abbassato, l'ho sentita che ha detto l'ho abbassato. Però c'è più forte lì di me di radio. È meglio che parli lì al baracchino. Le donne escono un bel forte al baracchino, che roba di radio vane, perché sono squillanti come voci, capito? Poi acuta come ce l'ha la voce lì. Oggi mi ha preso un'incazzatura dal dottore, mamma mia. Ero furioso. Cazzo, l'ha già detto, non ci vado più da nessun medico. Cazzo, mi vuoi mandare a fare l'elettrocardiogramma da un altro cardiologo? Perché mi avevo dimenticato l'elettrocardiogramma qua a casa, siccome c'ho la pressione alta, no? E sono andato lì per farmi aumentare la dose delle medicine, perché quel dottore mi ha rovinato, quello che è morto. Ma il cardio? No, il dottore che avevo prima è morto, no? E adesso c'ho una dottoressa, ma mi ha fatto così incazzare, qua. Ero furioso. Aspetta, loro per darti le medicine, per aumentarti le dosi del medicinale, devono vedere com'è il cuore. E loro non è che abbiano tutti nata lì. Devono prendersi sicuro, non è che ti vuole dare la medicina, ti possono dare dosi in più, quando poi magari ti fa male al cuore, si vede che infatti ci piangono loro. Devi capire anche quello. Loro sono meticolosi per quello, anzi devono essere così, sono benefregisti i dottori della voce chitarra in Egeri. Devono essere meticolosi. E a me non mi sta facendo fare tutte le analisi. Ho pagato ieri, sono andato Natalì. Sono andato a fare la visita oculistica, no? Mi dice deve andare all'ufficio del ticket a pagare. Vabbè, sono andato là, ha guardato l'impegnativo, ha detto no, può andare direttamente dal dottore. Ah, che bello, non mi ha fatto pagare, perché c'ho l'esenzione, non è. Sono arrivato dal dottore, mi fa, lei deve passare prima a pagare e poi deve venire qua. Ho detto scusi, io sono passato, lei non è andato, vi facciamo della ricevuta prepotente come un pezzo di merda. E gli ho detto guardi, io ricevuta non ne ho, perché lui mi ha detto che io potevo andare direttamente dal dottore. Ma chi gliel'ha detto? Ma chi mi sta scherzando? Che qua lei è in privato, deve pagare. Ho detto, vabbè, io se devo pagare vado e pago, ma non c'è bisogno di dirmi che non sono andato, non mi può dire una cosa che non è così. Vabbè, sono andato, cazzo, sono come un tiglioso, che se a me mi gira le balle ti vado a fanculo. Sono andato di nuovo da quello lì e c'era la collega, mi ha detto venga, glielo faccio io. E glielo ho detto, mi ha detto ma chi è che te l'ha fatto questo affare? Il tuo collega, lui dice, non sa nemmeno leggere, qua c'era scritto che lì l'aveva preso in privato, e quindi normale che deve pagare, però la facciamo pagare invece che 60-50, mi ha fatto pagare 50 euro. E anche io ho pagato così, sono andato a pagamento, ma cosa cazzo? Ti disegnino anni dati e devi pagare. Cosa vuoi che ti dica? Ma avessi solo il cuore, c'avevo tutti i referti del cardiologo che avevo prima, e infatti andrò lì, non ci vado più da nessun altro cardiologo. Ci avessi solo il cuore malato, sono messo male forte. Ecco. Un attimo, registrato, ascolta lì. Poi ogni volta che vado al cardiologo devi portare gli esami vecchi, perché sennò ti dice cosa, ma mi ha sgridato l'altra volta. Me ne sono dimenticato, ma ha detto cosa. Avanti, break. Sì, buonasera, scusate, mi date un controllo, per favore, sono nuovo. Eia. Ciao Bulldozer, ben sentito. Stagi butti due. E allora, Rinato Siga, non ti ho più sentito. E ogni tanto mi affaccio, dai, giusto per provare nel radio se sono tutti a posto, va. Segnale radio come buona. E io sempre al solito, buono, tutto buono. Va bene, ok, grazie già. Chi c'è con te? Natalino Alfa 1. Ciao Natalino, so se mi ascolti.